dynamite. Drink nothing, folks, but that is night. Back in that sack, where the fellas do the back and a women will be wacky woo. Do-a, it don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. C'è una cosa che mi fa tanto male, è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile. Yeah, mama, I'm gonna start a reading saying you've been out boogie woogie and there's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that a while ago? Yes, when I come in. But I'm out on the road again. I'm on the road again. Whiskey 3, re, re, re. Taking me a whiskey trip. Buonasera, bentrovati qui a Radio The Vault. Buonasera da me, Alessandro, e come dicevamo prima sulla nostra pagina, anche ospiti in studio stasera qui le nostre bronchite galoppanti. Vabbè, io ormai ho proprio una bronchite cronica. Alessandro invece pallido, tosse, nausea, dolore. Se c'è un dottore ci può raggiungere a via Guido Baldi. Come stai, Alessandro? Sto benissimo, grazie. Oh. E vedo che sei tornato dalla Giamaica. E questa sera sei qui con me. La settimana scorsa invece mi hai lasciato a fare la puntata da solo. Lo so, Alessandro, ma tu sai che noi uomini del mondo abbiamo un sacco di giri a livello internazionale. Spero comunque che tu ti sia trovato bene. Se c'è un dottore, bene. Se c'è un dottore, magari in regia nell'altra stanza, se ci conferma che le nostre voci si sentano bene. Comunque, poche parole perché poche non gliela fai. Calmati, mi devi durare almeno due ore qua, mi devi reggere stasera. Però ragazzi, questa è la passione, perché guarda come è venuto Alessandro stasera a fare whisky trip, però soli non ve lascia. Vabbè, detto questo, mentre intanto magari ti somministro un po' di antibiotico, no, suona male detta così. Vabbè, C'è questo qua in gocce, best in brow. In gocce, lager beer, e questa dovrebbe andare beh, bene. Diretta by Radio The Vault, mo questa disinfetta va. E intanto va, non perdiamo tempo, iniziamo. Ella Fitzgerald, Sunshine of Your Love. When lights close a tired eye, I'll soon be with you, my darling. Give you my dull surprise. I'll be with you soon, my darling. Be with you when the star starts falling. Oh, no, no, no, no, yeah. Boo-dee-dee-doo, baby, shouting, I'm hollering here in Montreux. I'm ashamed of myself, but I'm looking for my baby in the sunshine, and they've got so much sunshine here. I can go along the river and sail along the river looking for him. I've been searching, yeah, I've been searching, woo. I've been searching, I've been looking for my baby in the sunshine. I've been searching all night long, looking there, my baby in the sunshine. Yes, I'm searching for my baby, looking all in the sunshine. Lord, help me find my baby in the sunshine. Looking, I've been searching, but I still got a terrible long ago. Yes! Silence. I'm looking and I'm searching and I'm waiting, hunting, searching for my baby in the sunshine of your love. Madonna, che robetta, regà. Vabbè, probabilmente non voglio dire la miglior cantante di sempre, ma no, sì, forse voglio dirlo, non lo so. Sicuramente è un grande. No, canta meglio simbolo. La bronchite d'Alessandro, sì, no, sicuramente. No, che sto, mi sto esercitando per fare una cover band di Tom Waits. Ah, allora you are welcome, proprio. E vabbè, ma ha sentito che pezzo, insomma, cioè. Lei che ci rifà una cover dei Grimm. Questo, sì. Se non sbaglio, questo è proprio Clapton. Sì, sì, sì, il pezzo è stato scritto da Eric Clapton e compagni nel 67. 67. Secondo questo. Disco dei Grimm, che come sappiamo hanno avuto una grande influenza dal blues. Assolutamente. Beh, sì. E vabbè, oh. Lascia pensare sta cosa, lascia pensare, ma andiamo avanti, che ci regali adesso? Andiamo avanti e vi propongo e vi regalo due pezzi dal vivo. E tante volte abbiamo parlato dell'influenza della musica blues. L'influenza, pure qua. Sul rock. E quindi continuo in questa linea. E infatti ho due pezzi di Nick Cave. Nick Cave che appunto prima negli anni 70 con i suoi birthday party e poi negli anni 80 con i Bad Seeds è stato un cantautore e un autore del rock che ha profondamente attinto in modo personale. Non l'ho capita, non ti vengo dietro, guarda, non mi dà occhiate, no. In modo personale alle sorgenti del blues, cantando canzoni rock che riportavano in vita lo spirito dei grandi e maledetti bluesmen delle origini. Allora ho selezionato questi due pezzi, Train Long Suffering, non a caso l'immaginario del treno diffuso nel mondo del blues, del treno e del dolore, il treno della lunga sofferenza. Treno, dolore, già mi è venuto in mente Campoleone, guarda. Esatto. Train Long Suffering, che tratta dal disco del 1985 The First Born is Dead, e dal vivo ad Atene, da un concerto che si è tenuto ad Atene nell'89, e la perla è una cover di John Lee Hooker dal titolo I'm Gonna Kill That Woman. Nick Cave, buon ascolto a voi. She was nothing but trouble, trouble. She kept me worried all the time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. God knows her movements. God knows her movements are killing me. Thinking. Must I kill that woman? Must I kill that woman? She keep me worried all the time. Yes, she did. That's the truth. But I don't care what the people say. I'm gonna kill that woman. I'm gonna kill that woman. Hey Lord, I get down on my knees. Buonasera ai nuovi ascoltatori che si sono connessi pochi istanti fa. Benvenuto, un benvenuto anche a voi. Questo era Nick Cave con i suoi Bad Seeds dal vivo ad Atene nel 1989. Siamo andati a scovare, a ritrovare questa cover di John Lee Hooker, che era I'm Gonna Kill That Woman. E dopo questa ti passo la parola, Antonio, per continuare ancora con il blues. Mi passi la parola e niente, io ci avrei una traccia pronta, però al limite, cioè, vorrei pure darti una scelta: o mettiamo questa traccia, o magari, che ne so, se puoi fare una solo, un'improvvisazione di bronchite, visto che stasera siamo in tema. Una rullata di colpi di tosse. Una rullata di colpi di tosse. No, la smetto subito. Guarda, la finisco prima di subito. E ci andiamo ad ascoltare una nostra vecchia conoscenza che ci è venuto spesso a trovare e quando passa fa sempre piacere. Grande chitarrista, vabbè, proprio non è rappresentativo come chitarrista, però nell'insieme è stato quello sì, un grande armonicista, un grande cantante, ma soprattutto, ragazzi, una grande personalità. E quindi che ci andiamo ad ascoltare, Alessà? Ci ascoltiamo la bella Shake For Me di Aoni Wolf su Radio Default. E dai! And now, you give me the great pleasure to present to you the one and only tail dragger, better known as Harlan Wolf. Eccolo! È tornato pure il microfono. Mamma mia, sto perso, mi pare che... Fammi tempo a vedere. Guarda, già stai a riprendere. Whisky Trip cura diverse patologie a questo punto. Continuiamo su quest'onda, che dici? Assolutamente sì. Whisky Trip, blues e jazz sola andata. E infatti è... Tanto tempo, diverso tempo che siamo in viaggio, siamo alla puntata numero 1314. Ma ne arriviamo insomma, mai qua? È un viaggio di sola andata attraverso i territori del blues, del jazz, del post bebop, assolutamente. E allora, Howlin' Wolf, abbiamo appena ascoltato Howlin' Wolf con Shake For Me. Veramente un grandissimo bluesman, davvero un grande. E adesso invece volevamo proporre uno specialino, uno spazio dedicato a un altro grande bluesman, parlo di Muddy Waters. E insomma, io direi che negli ultimi 70 anni, dimmi se sei d'accordo Antonio, ditemi voi a casa se siete d'accordo, negli ultimi 70 anni dire blues significa dire Muddy Waters. Beh, che domanda. Sì, cioè non te posso dire no, ovviamente è un simbolo, un'icona, è stato un innovatore, che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire? E allora li mettiamo questi tre pezzi, ce li ascoltiamo insieme e speriamo che vi piacciano, che Whiskey Trip vi faccia passare sempre dei bei mercoledì sera. I tre pezzi sono, e li ascoltiamo in sequenza, I Feel Like Going Home e poi due brani dal vivo. Sto curando, esercitando particolarmente la mia pronuncia questa sera. Dimmi se ti piace. No, mi piace tantissimo, allora, questa voce consumata, like Alessandro. Going Home e She's 19 Years Old e l'ultimo pezzo, sempre dal vivo, Walking Through the Park. Mamma mia, un applauso ragazzi, un applauso. E dai, un applauso a Muddy Waters che ci ha regalato musica fantastica. Buon ascolto ai nostri ascoltatori. This morning all I have was gone again. Late over in the evening, man, now I feel like blowing my horn. Well now, woke up this morning, all I have was gone. Swimming to the ocean running into the sea. But don't find my baby, somebody gone. Show bury me. Books running to the ocean, man, that ocean running to the sea. Well now, don't find my baby, child. Somebody sure gonna bury me. Stop her, hold evil with her. But it seems like hours and hours seems like days. Well now, seems like my baby child, well child, will stop her, load our way. If she wasn't a young girl, I wouldn't be arguing over, you know. Yeah. I'm so carried away with young women that I'll kill anybody about one of them. Yeah. I'm gonna say something to you, and I don't care how you feel. You just don't realize you got yourself a good deal. She's 19 years old. She got ways just like a baby child. Nothing I can do to please her. To make this young woman feel satisfied. Don't care if you get mad. You're about to put a little girl that I ever had. She's 19 years old. She got ways just like a baby to make this young woman feel satisfied. Thank you. walking down through the park. I'm going out walking, walking down through the park. I'm gonna walk in the moonlight, walk until the night is dark. I'm going out walking down on the avenue. I'm going out walking down on the avenue. I'm gonna walk so long till she don't know what to do. Ladies and gentlemen, I got a special guest and I want you to meet him. Johnny Winter! Walking down on the street. I'm going out walking, walking down on the street. I'm gonna walk the left side of me, Johnny. You know she can't be beat. I'm going out walking, walking down to the park. I'm going out walking, walking down to the park. Walk until the night is done. Look out, Johnny! She'll do. I'm gonna bother my baby. Don't tell her what she'll do. With a girl, she might cut you. Well, she may shoot you too. Muddy Waters dal vivo a Chicago, Chicago Fest del 1981, questo importante festival che si tiene appunto nella città dove ha fatto carriera Muddy Waters. E allora, per chiudere la nostra prima parte dedicata al blues, abbiamo ancora qualche colpo da sparare. C'ho una pallottola bella grossa, fratello. No, vabbè, senti, adesso stasera mi piacchi, marchi male tu stasera, mo io capisco che stai male, tutto quanto. Facciamo che, senti, se no ci perdiamo sempre in chiacchiere, sempre in aneddoti, sempre cose, facciamo una cosa più smart. Allora, okay, io mi informo se Radio Default mette a disposizione un po' di gettoni d'oro da dare in premio a chi su Skype ci scrive di chi è questo pezzo, Fortiful, okay, Pistol. Quindi buon ascolto e provate anche voi a vincere, ragazzi, su Radio Default. Thank you. Allora, nessuno m'applaudono dalla regia, guarda, che ne so, guarda, aspetta, possiamo sperimentare una cosa bellissima stasera, guarda, che ne so, per esempio il mio umorismo spaziale, Alessandro, no? Sì. Guarda, sei pronto? Sì. Un uomo entra in un caffè, splash. Ecco, mo se sono sì, parlati, vedo, applausi. Sento le reazioni entusiaste del pubblico. Ce potremmo a casa provare. E anche qui in sì, regia. Ma mettiamo le risate tipo fiction, capito? Che ne so, di una cosa divertente, riproviamo. Un uomo chiede una camicia e la taglia? No, la porto via intera. Non parte l'effetto, non parte. Non è piaciuta. Niente, raga, non siamo. Eccola, è piaciuta tantissimo, è piaciuta tantissimo. Vabbè, grandi momenti di grande radio e. C'è anche Whisky Trip, non solo musica, anche intrattenimento. Sì, anche sì. Politica, anche cultura, anche società, anche costume. Siamo la trasmissione. Gastro, tutto. Una trasmissione per il popolo, una trasmissione per gli appassionati, una trasmissione per tutti. Oh, dopo questo simpatico intermezzo possiamo passare alla seconda parte della puntata. Sì, come sempre prima c'è il blues e poi c'è il jazz. Siamo un po' scatenati su questa traccia. Stavamo ballando, è un peccato che non possiate vederlo. Infatti noi abbiamo questo grande limite che essendo in radio vi perdete il comparto visivo di noi Whisky Trip, che è una grave perdita, ragazzi. Però quando volete ci venite a trovare, facciamo una birretta e siete sempre i benvenuti. Giusto, Alessandro? Sì, giusto. E... no, dio, se non te va, dillo, cioè, se no, cioè, ti tiro un invito, No, no, mi piace, mi piace. No, scherziamo, scherziamo. E vabbè, andiamo avanti con una richiesta. Con una richiesta di... lo teniamo nell'anonimato? Ah, che bello questo pezzo. Ah, no, no, non il pezzo, il richiedente della richiesta. Non lo so chi l'ha richiesto. Teniamo in anonimato perché no, vabbè, persone ai vertici, è meglio non fa nomi, non fa cose, certo. Come funzionano ste cose. È un grande classico, un pezzo dolcissimo di un artista che qui proprio strappiamo i vestiti ogni volta che la sentiamo perché cioè spacca. E quindi ragazzi, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Che inglese adesso, senti, sì. My baby just cares for me. My baby don't care for cars. even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Ben trovati, ecco, arriva pure il microfono. You used qualche... to love me. No, stasera ragazzi, no, è bello così, guarda, no, ci abbiamo un po' così, la rivolta delle mani, no? Quindi ci concedi questo ballo, Alessandro, partono canzoni da sole, ma chi l'ha messa questa? Questa? Questi... Questi... Questi... Questi... Questi... Questi... Questi... partita per sbaglio, ma so un infame e ve la fermo. Ve la fermo, no, nel caso in prossime puntate di Whisky Trip. Stasera non voglio far fare tardi ad Alessandro che deve andare a prendere il latte caldo, giusto? Col giusto. Miele. Col miele, che fa molto blues. Se no, una cosa. Allora, io voglio di una cosa, voglio di una cosa. Milk Trip. Perché noi, oltre tutte le cose che diciamo prima, siamo pure... Cioè, sarebbe carina aprire un Whisky Trip, una piccola rubrica con consigli, che per ne so, salute, per la casa, per i piccoli rimedi delle mamme. Regà, latte e cognac. Cioè, io una è volta, vero. Oh, ai tempi, oh, ti giuro, lavoravo in cantiere, pensa che sì, c'ho un passato orribile, ma adesso non le faccio più queste cose. Un giorno stavo andando con la febbre, vado al bar, il barista mi vede tutto così... Dice, ma dove vai così? Aspetta, te faccio latte e cognac. Dico, ma che dai, dico, al limite dammi solo del cognac, però me lo porto via dentro una boccetta. Dice, no, no, fidete. Oh, regà, tempo duro, sfebbrato. Quindi, latte e cognac tutta la vita. Lo consiglio a te, Alessandro, ah, che... Sì, te sento, mannaggia. E vabbè, niente, abbiamo fatto cultura anche questo momento. Un saluto intanto a Emanuela che ci scrive... E ci percula sul mio WhatsApp, vabbè, comunque la perdoniamo simpaticamente. Alessandro, la mettiamo in lista nera, decidi tu, guarda. Beh, guarda, gli ascoltatori ne abbiamo già 6 milioni, quindi... Dici, quindi uno più, uno meno... Insomma, però dai, la perdoniamo. Ti perdoniamo per stavolta, ti perdoniamo. Va bene, andando avanti, io continuo a sentire fischi sotto, non so che succede, ma... Vista l'ora non ci frega manco più niente. Forse ha segnato la Roma. Ha segnato la Roma, ragazzi. Ha segnato la Roma. No, gioca venerdì. Gioca venerdì, niente. Vabbè, so poco calciofilo io, se sapeva. Andando avanti, arriviamo a un pezzo interessante di un artista italiano. Questa traccia è un bellissimo jazz, un po' cantautoriale. In siciliano addirittura, che io quando l'ho scoperta non capivo che lingua era, dico, boh, sembrava inglese, sarà portoghese, sembrava americano, ostrogodo, invece era siciliano proprio tanto stretto. È un artista che, insomma, ho ascoltato qualcosina, belle cose, e che tocca fa, però non diventa famoso, perché qua, ti ricordi quando parlavamo dei allevi? Vanno avanti questi, mo non mi va di riaprire polemiche su Allevi, solo ecco, rismerdarlo velocemente. E parliamo di Ivan Segreto, e quindi ci andiamo a ascoltare questa sua traccia, che è un pezzo così, come dicevo, un po' cantatoriale, su sonorità molto molto jazz, ma c'ha pure il ritornello un po' italico neomelodico. Cioè, sta canzone a me mi ha rapito tantissimo, sì, magari è un po' smielata, un po' dolce, ma... Vista l'ora, insomma, mi perdonerete. Quindi, ragazzi, su Radio Default, Ivan Segreto, Porta Vagno. Porta Vagno, la porta di Lumuno, perciò ti ha mai finire a lucchi fare. Se una macchina passa, si ferma in un mondo, si yoga, scende, lì non è, danni che danni tutti intorno. Nino a roba un mulù, per fare gran festa, e lillo ad umana testa, di cri tanto un portù. Ed ogni tanto, qualche giorno senza avere fatto danno, si ferma il cuore. E poi facciamo fare una volta che siamo un bando a ballare, Semu kiancenu, beato cu morire nu. Se dice ci vuole coraggio, sapendo che è tutto un passaggio. Sta passando una bagnante che si mangia la simenza senza ricordo che la parola come bella e nino coghi un ciuri si aspetta e si picchia carezzerà amore e passa una carrozza. Se a devi si capizza una mucciuni, tu su canta voce pazzani. La vita voglio essere un leone, di non se ne va, se ne va cadito, la Sara porta bagno, un lieto sapete. Volta che siamo un ovale amava l'ande siamo chiancenno chiancenno beato come morire noi se dici ci vuole coraggio sapendo che è tutto un passaggio e poi bene di Dio va a finire lasciamo chiancenno chiancenno beato come morire noi se dice ci vuole coraggio sapendo che è tutto un passaggio. Ben trovati, spero vi sia piaciuta. Passiamo questi pezzi pure un po' molto italici, perché in realtà l'aspirazione mia e di Alessandro è entro quando si fa a febbraio, quando è riuscire a condurre Sanremo. Diciamo, no, duriti, ma lo so, tocca arrangiarsi. Dicono tutti che c'è crisi, reinventiamoci pure noi, fratello, che dobbiamo fare? Detto questo, andiamo avanti. E wow, mi ero quasi scordato di aver preparato. C'è un paio di chicchette che ci andiamo ad ascoltare velocemente. Due brani dell'immenso stratosferico 8 braccia e quante dita, non lo so. Gin Krupa, dici che c'entrano i dita, vabbè. E ve ne ho preparate proprio un paio, perché ne parlavo l'altra sera con un amico e mi diceva perché non me le passi a Whisky Trip. Quindi amico, accontentato, e ci andiamo ad ascoltare prima Stomping at the Savoy e poi che cosa avevo preparato. Ah, eccola, Big Noise from Winnetka, e ce l'ascoltiamo così di fila. E poi però restate, perché adesso diglielo che c'hai per la fine della puntata, va preparato una cosa, ragazzi. Per la fine, sì. Sì, è una... Non svela niente. Una particolarità, diciamo. Crea un po' di pathos, che ne so. Due pezzi che di solito non si sentono molto, ma noi li abbiamo trovati. Ah, proprio, mamma, ragazzi, c'è un pathos nell'aria che sbrigamo, se vai, Jane Cruba per voi su Radio Default. Thank you. Vabbè, noi qui ve lo diciamo non per farvi rosicare, ma c'avevamo pure il supporto video. E cioè, l'ultimo pezzo che avete sentito, proprio in tuba che si alza dalla batteria e inizia a suonare il contrabbasso con le bacchette, cioè momenti toccanti. Sono commosso, ragazzi, e vi lascio ad Alessandro. Sì, ci voleva il video per questo pezzo, dove è straordinario, a un certo punto e il nostro Jen si alza e suona le corde del suo contrabbassista, del contrabbasso del suo contrabbassista, con le bacchette, e partono questo duo condividendo lo stesso strumento, questa chiusura bellissimo, e niente, siamo verso la chiusura, sì, verso la chiusura della puntata, ma qualche cosa ancora da ascoltare, ancora da proporvi, ce l'abbiamo, e qualcosa che è diverso dal solito, che esce un pochino dagli schemi, da quello che solitamente si chiama jazz, ma che secondo noi ci sta tutto. Parlo di una band che sono i King Crimson, che come molti sanno sono stati una delle principali formazioni del progressive rock, guidata dal cerebrale, come altro chiamarlo non saprei, un questo è un altro, sì, cerebrale, ci capiamo da soli, ragazzi. Perché, cerebrale, vabbè. Chitarrista Robert Fripp. Robert Fripp, grande Robert Fripp. Pure tu, Robert, quando venì, cioè un pochetto che non te fai vedere. Insomma, mo io capisco che sei preso, però stiamo sempre qua noi. Un bacione. Ma Robert è venuto una volta, sai? È venuto quando? È venuto all'inaugurazione della radio. Ah, ma lo ricordo. E... Si era imbriacato. Si era mangiato tutti i tramezzini, tutti i panini. Si era fatto un vassoio. Si riempiva continuamente. Sì. Ci starà ancora a campa dei rendita con questi tramezzini. È un grandissimo musicista, un grande artista, e lo ammiro, ma. Però c'è un debole per i tramezzini, ragazzi. È da dire che è un po' così, un po' di manica. Un po' di manica. The big hand. Un po' di manica. Di manica corta, di braccino corto, ecco. Oh. Non si può avere tutte le qualità, no, affatto. Riunite in un solo uomo. Comunque, sempre benvenuto Robert Fripp. Allora, sì, dicevamo appunto dei King Crimson, una delle principali formazioni del progressive rock, e influenzati sia dalla musica classica e quanto dal jazz. E secondo me sono una formazione che si pone al crocevia tra appunto la musica rock, la musica classica e la musica jazz. Una formazione molto particolare. Nel 71 comunque Robert Fripp aveva costituito una nuova line-up del suo gruppo, perché spesso i King Crimson hanno affrontato cambi di formazione e lui è sempre rimasto alla guida, però si circondava di volta in volta di musicisti diversi, cambiando molto la formazione a seconda dei suoi progetti. E nel 71, in questa fase della carriera, aveva arruolato anche musicisti di estrazione jazz, tra i quali il sassofonista e flautista Mel Collins e il batterista Ian Wallas. E allora, proprio da questo periodo, abbiamo pensato di proporvi una bellissima versione dal vivo di Sailor's Tale, un pezzo che possiamo ritrovare sull'album Island, uno dei capolavori dei King Crimson e del rock degli anni 70. Ce l'ho originale su MP3, quello, Alessandro. MP3 originali, mi raccomando. Sì. E allora, Sailor's Tale, dal doppio album Live in Plymouth del 71, King Crimson. E Robert Fripp, Mel Collins e il batterista Ian Wallas. Buon ascolto. Thank you. Thank you. No, no, no. Can we do another one? Thank you, thank you. This next one is a new one. It's so new, in fact. Well, I'm just squinting out the corner of my eye to get the words together. It's called The Letter. Che tiro, fratello! Gagliarda! Grandissimo pezzo, e con loro siamo arrivati al momento dei saluti. Ti ci mando a dormire stasera, fratello. Siamo arrivati al momento dei saluti e ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito questa sera. E un avviso per la prossima settimana, Whisky Trip. Whisky Trip, devo portare nonna dal veterinario. Mentre ho il gatto in forno. Vabbè, andiamo al concerto la prossima settimana, diciamo. Quindi ragazzi, facciamo sega, provate a resistere. Magari riusciamo a mandare una replica, se proprio starete lì a strapparvi i capelli. Non lo so, non lo so. Certo, però ecco, ci vediamo fra due settimane. E veramente grazie a chi ci segue, anche a chi non ci segue. No, insomma, no, chi non ci segue, magari io mi dissocio da questo grazie. Ci seguirà. Allora, ci seguirà. erano i King Crimson, abbiamo detto, questo live in Plymouth del 71 con Sailor's Tale, ricca di improvvisazioni. Erano 16 minuti dal vivo. Avete potuto ascoltare la musica di Mel Collins, passato prima al sassofono, poi al flauto, e in una struttura che ricorda da vicino il jazz. E proprio il batterista Ian Wallace è stato quello che in seguito, nel 2005, quindi piuttosto di recente, ha formato il Crimson Jazz Trio, a testimonianza ancora di quanto la musica dei King Crimson sia legata e influenzata dal jazz. E addirittura hanno fondato un trio vero e proprio jazz con il pianista Jody Nardone e il contrabbassista Tim Landers, e hanno pubblicato due album che si intitolano magari con non troppa fantasia, ma tipico del, insomma, dei pezzi jazz, King Crimson Songbook volume 1 e volume 2. E regolare, insomma, dai. È regolare. E quindi pianoforte, batteria e contrabbasso, formazione classica da trio jazz, una rilettura dei pezzi dei King Crimson, è veramente interessante. Questa è una chicca da appassionati, insomma. E con questa allora ci chiudiamo. Il pezzo è veramente famosissimo, è la celebre 20th Century Schizoid Man. E allora ce l'ascoltiamo e ci vediamo fra due settimane.